English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Una nuova puntata del nostro English 24. Anche per questo sabato d'agosto ritroviamo i personaggi che più ci sono piaciuti in questa stagione. Anche per questa sera abbiamo scelto due scrittori, due tra gli scrittori più noti in Italia. Il primo viene dall'Africa, è nato in Zambia, cresciuto in Sudafrica, è uno dei più venduti al mondo, Wilbur Smith. Lo abbiamo incontrato a Milano quando è venuto a presentare il suo ultimo libro, La legge del deserto. Chi sono intanto i protagonisti del romanzo? Well, the main characters, he runs a security company, but he comes from a military background, so he is a man of action. He is a man of justice. He believes in justice and the criminal paying the price of his crimes. The female prototype in the book is Hazel Bennett. As a young girl, she had been a professional tennis player, highly successful. So she married an oil baron. He was so much older than she was that he died fairly recently and left her the whole company, which she is running. Accento molto comprensibile, però effettivamente un accento molto marcato da parte di Wilbur Smith, persona veramente molto simpatica, un vecchietto pacioso, non si direbbe il grande miliardario, lo scrittore di immenso successo che è. Ci ha spiegato appunto chi sono questi due personaggi principali della Legge del Deserto. Sì, è questo accento che spesso hanno le persone che hanno imparato l'inglese anche come madrelingua, però vivendo in un paese africano come Wilbur Smith, che è nato in Zambia, mi dicevi tu prima, io non ricordavo esattamente il paese, credevo in Sudafrica, è nato in Zambia, quindi con la lingua ufficiale l'inglese, però appunto un inglese che poi ha un suo accento particolare. Ci spiega subito qual è il main character, questo nostro ormai false friend, ma che per noi in realtà non è più un false friend, sappiamo che non è carattere ma personaggio, ed è questo personaggio, quindi principale, main, che ha un military background, cioè viene da ha un passato, in questo caso diremmo in italiano, ha un passato militare. Tra l'altro qui, a proposito di man of action, uomo d'azione, appunto lo diciamo anche noi, man of justice lo traduciamo, lo capiamo, però noi non diremmo così, però è una bellissima espressione, no? È un uomo, così come un uomo che ama l'azione, un uomo che ama la giustizia. E poi c'è lei che she had been a professional, dice lui, quindi a professional tennis player, quindi una giocatrice di tennis professionista, highly successful, quindi che aveva avuto un grande successo, ma che poi sposa questo oil baron. Baron, un po' come lo usiamo anche noi però in senso un po' sempre spregiativo, cioè i baroni per noi ha sempre una connotazione negativa, invece in inglese è semplicemente un magnate, potremmo tradurre così in italiano, un magnate del petrolio, naturalmente non dell'olio, sappiamo che oil è il petrolio. Possiamo immaginarcela giovane, bella, atletica, che in giovane età sposa un uomo molto più vecchio di lei, più o meno la storia è questa, dell'inizio del romanzo. Sì, solo che poi appunto lui, siccome was so much older, così molto più vecchio di lei, così tanto più vecchio di lei, e poi muore. E quindi left her the whole company. All scritto non A-L-L ma all, nel senso di W-H-O-L-E, l'intera, la completa azienda, e she's running to run a company, letteralmente correre un'azienda, in realtà in italiano naturalmente diciamo gestire l'azienda, quindi questa ex professional, come dice lui, tennis player, diventa poi una dimostra anche delle doti di grande manager, di capitana d'azienda. E questo quindi è il punto di partenza di questa Legge del Deserto, l'ultimo romanzo di Wilbur Smith, col quale stiamo un po' chiacchierando e stiamo cercando un po' di capire come si esprime in inglese. Tutto questo ci ha portato a una curiosità: sapere come Wilbur Smith scrive i suoi libri e soprattutto da dove trae la sua immaginazione. Well, the inspiration is my own imagination, 90%. But in this particular novel, I have taken the background from the headlines of the newspapers, from everything we see on TV. It's based in the Indian Ocean, and it's set around the transporting of oil from the Emirates, and it is also based on piracy on the high seas. So it's a mixture of 90% of my imagination and 10% of actuality. How do I write? I write in my head, the imagination, an exercise of imagination and plotting, which is all done in my head. And then when it gels, I sit down at my PC and I write it. Semplicissimo, lui si siede al PC e scrive e poi fa questi best seller epocali, insomma vendutissimo Wilbur Smith in tutto il mondo. Ma andiamo per ordine, da cosa si ispira, dove nascono queste storie di Wilbur Smith? Quindi ci tiene molto a dire insomma che è my own imagination, cioè comunque è la mia propria immaginazione, le mie idee, la mia testa, la mia mente, i miei voli, i miei viaggi dentro di me. Però I have taken the background, quindi diciamo le basi, anche qui prima avevamo visto un military background, un passato militare, qui background significa un po' la ricerca che un romanziere fa, quindi le ricerche sono le headlines from the newspapers. Headline è il titolo, quello che noi diciamo, quindi i titoli dei giornali, newspapers, e in questo caso quindi c'era una base proprio molto radicata nell'attualità e poi lui l'ha macinata, ci ha costruito tutto un suo mondo. Infatti prima lui ci diceva che questa Hazel, questa splendida protagonista femminile, si era sposata con un barone, con un uomo potentissimo nel mondo del petrolio, ed è proprio questo forse che lui ha tratto dall'attualità, ha visto qualche titolo e si è ispirato. Sì, perché c'è questo affascinante mondo delle tratte commerciali, quindi tutte queste navi che transporting oil from the Emirates, quindi che partono dagli Emirati Arabi e non solo naturalmente, quindi da tutti i paesi che, in questo caso dai paesi produttori di petrolio, e poi ci sono queste storie della piracy in high seas, cioè la pirateria high sea, esattamente come in italiano alto mare, cioè quando queste appunto molte cose probabilmente non le veniamo neanche a sapere perché le assicurazioni coprono i danni e non si vuole far sapere che cosa succede poi su queste navi che trasportano portano petrolio o altre cose molto preziose, e quindi appunto lì poi ha lavorato la sua immaginazione, perché lui ha letto solo i titoli dei giornali e quindi ci ripete 90% it's imagination, anziché percent direbbe un americano, e 10% dice lui it's actuality, cioè è l'attualità, sono gli headlines, the newspapers, però solo questo 10%. Poi riflettendo ritorna alla domanda how do I write? Allora vediamo come scrivo, come faccio a scrivere. Effettivamente è bello immaginare questo signore che I write in my head, scrivo nella mia testa, I exercise my imagination, I do the plotting, plot è la trama, quindi do the plotting è costruire la trama. Poi quando I'm done in my head, quando ho finito il lavoro tutto di testa, I sit down at my PC. Mi siedo al mio computer and I write it. It's as easy as that. Passiamo ora al secondo protagonista di questa sera. Viene da Israele, sono suoi romanzi come Non dire notte, Una storia d'amore di tenebra e l'ultimo Scene di vita nel villaggio. Stiamo parlando di Amos Oz. A proposito dei suoi romanzi, Oz ripete spesso, se dovessi dire in una parola di cosa scrivo, direi le famiglie. Se dovessi dirlo in due parole, direi le famiglie infelici. Ma perché sceglie sempre le famiglie come oggetto della sua narrazione? I find the family the most mysterious institution in the universe, the most paradoxical institution in the universe, the most comical and the most tragic. For thousands of years, we have been hearing prophecies that the family is going to disappear, but it's not disappearing. So I find there is no subject in the world which is more exciting to write about than the family. I try to describe the entire spectrum of family life, harmony and disharmony, anger and love and jealousy, everything. Io non lo dico, ma Giulia è impazzita da tempo per Amos Oz e sorrideva riascoltando questo suo modo di parlare, straordinariamente calmo, pacato. Certo, ha il suo accento israeliano, ma è chiarissimo. È una dai tempi di Una storia d'amore di tenebra, che dopo averlo visto in copertina in foto, l'ho visto una volta dal vivo e gli ho detto che ero innamorata di lui. I am in love with you, gli ho detto, e lui ha sorriso. forse ha pensato che venissi da una unhappy family. E comunque qui ci spiega che appunto lui finds the family, quindi trova la famiglia, noi diremmo ci aggiungeremo un che, ma va benissimo anche così, quindi trova che la famiglia, e poi ci spiega tutti questi aggettivi che trova, che sono tutti aggettivi molto lunghi, e quindi sappiamo che non possiamo fare il superlativo aggiungendo un suffisso alla fine, dobbiamo mettergli most davanti, quindi most mysterious, most paradoxical, most comical. Sentite questo accento, la sua lingua madre naturalmente è l'Yiddish, e poi parla però questo inglese splendido, come splendido è lui. È proprio innamorata Giulia, non c'è proprio nulla da fare. Allora appunto lui parla di queste famiglie che sono per lui la cosa più misteriosa, paradossale, allo stesso tempo comica e tragica. Non è nulla che ci stupisca, anche se è una cosa che da tempo sembra in via d'estinzione. Lui dice non lo è. Lui addirittura dice che sono thousands of years, migliaia di anni, che qualcuno cerca di spiegarci. Qui usa una forma molto complessa che dà l'idea che appunto un'azione, l'abbiamo vista tante volte, succede lungo un lungo arco di tempo. Quindi we have been hearing prophecies, abbiamo ascoltato queste profezie sulla disappearance della famiglia. Ma la famiglia è lì, alive and kicking, direbbero in inglese, quindi è viva e vegeta ed è il subject preferito per the most, anzi, there is no subject in the world which is more exciting, più interessante, più eccitante dal punto di vista della creatività per uno scrittore. E lui si diverte perché ha un intero spettro, lo possiamo dire anche in italiano, entire spectrum of family life. Lui va a esplorare tutto. E questo è vero, in effetti tutte le emozioni, gli stati d'animo nella famiglia, se li vogliamo allo stato puro, li dobbiamo andare a cercare nella famiglia. Quindi harmony and disharmony, anger and love, la rabbia e l'amore, jealousy, la gelosia naturalmente, and everything. Quindi lui insomma ci ha spiegato in modo più che convincente, perché lui naturalmente, abbiamo detto, è il migliore, perché la family life è il favorite subject per un writer. Ma in che modo la storia con la S maiuscola entra nelle vite delle famiglie che Amos Oz descrive? Israel is a land of refugees. There are Israeli Jews who fled from Europe and there are Israeli Jews who fled from the Arab Islamic countries. Every Israeli family has a love-hate relationship with the old country. History is something that happens inside everyone's house, not across the television screen from you, but inside your house. For every Israeli family, the political questions are questions of life and death. This is why the Israelis talk about politics all the time and discuss politics all the time. And this is why everyone is involved in the future of the country, because the future of the country is a personal question for everyone. È ovvio, lui lo dice, la storia è qualcosa che accade anche dentro le nostre case, non si può evitare di parlare e di vivere quello che accade anche fuori dalle mura domestiche. Perché Israel is a land of refugees. Qui notiamo la parola refugee che serve sempre, vengono composti questi sostantivi da un verbo, quindi il verbo è to refuge e il refugee è colui che si rifugia, ma vale per qualsiasi caso. Facciamo il caso del licensing: il licensee o il franchisee da franchising è colui che fa quell'azione, quindi chi si rifugia. Per loro spesso è una questione di vita o di morte. Questo è, credo, non dovremmo mai, insomma, ci serve appunto sentire queste persone che parlano, perché per noi che lo vediamo, come dice lui, across the television screen, dall'altra parte di uno schermo televisivo, è tutta un'altra storia. Per loro, anche se lo vedono in quel modo lì, perché non sempre vedono dal vivo le scene di guerra, però è una question of life and death, perché e questo spiega anche perché Israeli, dice, ci spieghiamo, so talk about politics all the time, parlano sempre di politica, forse un pochino lo facciamo anche noi italiani, ma per motivi molto diversi, perché, dice lui, everyone is involved in the future of the country, to be involved in something, essere coinvolti in qualcosa, come in italiano, quindi è una questione personale, di coinvolgimento personale, il futuro del paese. E anche per questa settimana il nostro tempo radiofonico si è concluso, è tutto per questa puntata di English 24, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Ancora l'augurio di una buona serata.